sta accadendo che è in atto un piano di riorganizzazione dopo uno stato di crisi che è iniziato oltre un anno e mezzo fa. Noi abbiamo fatto un anno e mezzo in regime di solidarietà, quindi lavorando il 30% in meno e con il 30% degli stipendi in meno, e dopo un anno e mezzo di sacrifici ci siamo visti arrivare nel mese di dicembre l'annuncio di un piano di esuberi pari al 30% della forza lavoro dell'agenzia, quindi stiamo parlando di 130 persone in tutta Italia e un piano di esuberi che ne dovrebbe coinvolgere tra le 30 e le 40 sia nel comparto giornalistico che nel comparto grafico. Lunedì ci è stato finalmente presentato il piano di esuberi, che prevede una radicale trasformazione dell'attività dell'agenzia e uno smantellamento dei servizi storici che noi offriamo, e a questo si aggiunge anche la questione degli stipendi, che non sono stati pagati il saldo completo di novembre e lo stipendio di dicembre. Le due notizie hanno camminato insieme, quindi vediamo anche l'utilizzo del pagamento degli stipendi come uno strumento di pressione per portare avanti la trattativa sui licenziamenti. Nel documento dell'assemblea, appunto, che avete tenuto anche ieri, emerge un'ulteriore preoccupazione circa poi la prosecuzione delle attività, cioè in questo piano, oltre agli esuberi, però non c'è, come dire, qualche strategia per uscire da questa situazione. Assolutamente, manca una visione chiara sul futuro dell'agenzia, mancano dei progetti che possano portare al rilancio della nostra attività, e soprattutto è un piano che è impostato esclusivamente sui tagli, quindi si fa un'analisi fredda di costi delle singole redazioni e si va a tagliare tutto ciò che non è attualmente coperto. Questo porta allo smantellamento delle peculiarità della nostra agenzia, che è il fortissimo radicamento territoriale. Noi abbiamo corrispondenti in quasi tutte le regioni italiane. Con questo piano saremmo completamente trasformati nella nostra attività e quindi c'è fortissima preoccupazione su quello che sarà il nostro futuro. Avete detto una giornata di sciopero, come dire, se la proprietà non rispondesse, come dire, alle vostre sollecitazioni, porterete avanti la mobilitazione? Certo, abbiamo indetto una giornata di sciopero per la giornata di ieri a seguito dell'assemblea, ma abbiamo il mandato della stessa assemblea a farne un'altra a strettissimo giro se gli stipendi non verranno pagati entro il fine settimana. Siamo in sciopero delle firme a oltranza, quindi tutti i nostri comunicati usciranno non firmati, e abbiamo comunque ricevuto dall'assemblea un mandato per avere 5 giorni per fare 5 giorni di sciopero durante questa trattativa, che dovrebbe durare 25 giorni. Quindi adesso vedremo come andrà la trattativa anche con il sindacato nazionale, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, però siamo sicuramente pronti a proseguire la mobilitazione. In queste ore avete ricevuto anche la solidarietà, ad esempio ieri il presidente della regione Emilia Romagna e anche candidato alla segreteria del PD Bonaccini ha espresso solidarietà. Stanno arrivando attestazioni nei vostri confronti? Sì, ne stanno arrivando tantissime, ne erano già arrivate quando a dicembre si era sparsa la notizia, a Bonaccini ma non solo, anche a Quaroli nelle Marche, Zingaretti e molti altri, perché siamo un'agenzia di stampa che da 30 anni presidia tutti i territori, tutte le regioni, tutte le città più importanti del paese. Siamo ovviamente presenti alla Camera e al Senato, svolgiamo un ruolo che è fondamentale per il funzionamento delle istituzioni democratiche, e le istituzioni di questo sono ben coscienti, e quindi c'è grandissima vicinanza da parte loro. In Italia l'editoria è da tempo, insomma, in crisi. Quali possono essere, come dire, gli strumenti per rilanciarla? Ma noi innanzitutto siamo un'agenzia di informazione primaria. Questo nel panorama dell'editoria è ancora più particolare, perché facciamo tendenzialmente una comunicazione istituzionale, quindi seguiamo l'attività delle istituzioni. Questo vuol dire che se già il mercato dell'editoria è in crisi di per sé, il mercato dell'informazione primaria è assolutamente quasi inesistente, perché noi facciamo un'informazione che è di tipo di servizio principalmente, quindi presidiamo le istituzioni per garantire la trasparenza del loro lavoro. Per rilanciare questo settore è chiaro che non si può non passare da una revisione di quelli che sono stati i principi che hanno portato all'ultimo bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mettere dei principi che innanzitutto valorizzino il lavoro dei giornalisti contrattualizzati, perché l'agenzia Dire è in crisi anche perché è una di quelle che fa meno ricorso al precariato strutturale rispetto rispetto ai competitor, quindi paghiamo anche il fatto di avere tanti giornalisti che hanno un contratto che rispetti le regole. Per la riforma del sistema, che doveva essere presentata già nello scorso novembre, invece è stata slittata dal nuovo governo di un anno, noi ci aspettiamo che cambino i principi che hanno stabilito la distribuzione dei fondi ormai qualche anno fa, che siamo in proroga ormai da 2 anni, e che si riconosca il peso dei giornalisti contrattualizzati e non altri criteri come il numero di lanci ed altre forme che non sono in realtà una misura della qualità del lavoro che viene portato avanti.